140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter, seguendo il nostro account ufficiale, chiocciola 140 caratteri R24, ma anche il mio account, chiocciola Marta Cagnola. Come ogni settimana, mano a mano ci avete anche mandato in diretta via Twitter le vostre domande. Ecco gli spettacoli di questa settimana dalla viva voce dei protagonisti. Il Festival Internazionale del Film di Roma nella nostra puntata di oggi di 140 caratteri. Auditorium Parco della Musica, Roma. Luca Argentero e Violante Placido protagonisti di un noir francese. Il regista però è italiano, Michele Placido, Le Guetteur. Forse all'inizio timori, naturalmente paure anche, perché no, di andare in una terra che molto ama molto il nostro cinema, e per questo poi mi hanno chiamato, perché lì il romanzo criminale è un film cult, ma proprio a livelli enormi, e tanto è vero, vivo ancora potrei vivere di rendita per altri 3-4 film. L'esperienza è stata bella perché mi affascina soprattutto l'idea poi di farlo in Francia, che è stata la patria, ovviamente la patria del polar, la patria del noir, di grandi registi, da Melville a Sauté, tanti altri, José Giovanni. Si dice che paradossalmente il noir sia il genere che meglio rappresenta la realtà anche nelle sue estremizzazioni così. Penso che Shakespeare, che è stato forse il più grande scrittore dal punto di vista di quello che sono le nostre problematiche, i nostri misteri, pensa che l'uomo sia cattivo e sanguinario, questa è la base. E non si spiegherebbero se no le guerre e tutto il resto, nonostante tutto quello che è accaduto in questi secoli, come l'uomo non trovi mai pace. Beh, il noir è nel suo piccolo una forma appunto di cinema molto più corrispondente tra l'altro alla realtà, voglio dire, le commedie fanno ridere, ma sappiamo che non è la realtà, perché se fosse tutto così da ridere nel mondo e nella vita sarebbe tutto più facile, invece non è così. No. Il noir corrisponde probabilmente a quello che è il vero mistero, il vero problema del nostro essere, e forse è questo che mi affascina di più. Diciamo che il noir è più la melanconia, più il crepuscolarismo dell'animo umano di non farcela nel percorso esistenziale. Questo mi affascina di più. Allo? Lo so che mi stai aspettando. Però devo fare ancora una cosa. Troppo lungo da spiegare, ti stanno ascoltando. Ti amo, Anna. L'unica cosa io ho chiesto appunto quando mi hanno comunicato che Kasowitz e che Daniel Oteia avevano accettato, appunto erano contenti di lavorare con me, di innestare almeno un personaggio. Sono partito da Luca Argentero, di innestare un personaggio italiano, un parà italiano che aveva fatto la guerra. Conseguenzialmente ho portato come Viola, come compagna, nel ruolo della compagna, e tutte e due avevano un ottimo francese, ai produttori è andato bene. Poi tra l'altro, no, devo dire Viola, non perché era in quei giorni uscito il film con Clooney in Francia, e i produttori hanno detto ma perché non sua figlia, anzi non sapevano, Viola non aveva ancora, insomma, dopo il film con Clooney qualche porta si è aperta, non la conoscevano che fosse attrice e figlia mia, e io sono stato ben contento che me l'hanno suggerita, naturalmente. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, pris contact avec lui. Lâche-moi! Qu'est-ce que tu as fait de lui? Chut, arrête! Ça suffit. L'esperienza è stata positiva, è vero che non per questi produttori, per altri mi hanno chiesto un'altra sceneggiatura che stiamo già scrivendo, e tra l'altro questa volta sarà una mia sceneggiatura. Per adesso è un titolo italiano non molto attraente, ma che si chiama L'innesto, tratto da un romanzo, da un testo teatrale di Luigi Pirandello, e la protagonista è una donna, È un thriller sentimentale? Insomma, un film italiano che si girerà tra Ventate in Francia, ma la motivazione è soprattutto perché è il dramma del nostro cinema. Non c'è più una lira, ragazzi. Nessuno più parla di questo. Purtroppo anche il governo Monti ha fatto poco e niente per tutti noi. Ce ne occupiamo soltanto il periodo adesso dei festival. E poi alla fine saremo costretti a vedere un pubblico inerte che riempie le sale per la commedia e abbandona il cinema autoriale, che in Francia è ancora un qualcosa di importante. Per esempio, anche adesso il nuovo presidente Hollande non è che ha fatto i tagli sulla cultura, ha fatto più tasse a chi ha più soldi per finanziare la cultura. Sarkozy fece la stessa cosa, cambiano i presidenti, questo è il problema nostro, destra, sinistra, ammazziamoci, bla. Loro si confrontano sul piano culturale. Spazio F, Roma. Il volto di un'altra, follie per la bellezza e il successo nel film di Pappi Corsicato. Fondamentalmente a me piace come rielaborare quello che vedo intorno a me e quello che ho visto tipo attraverso i film. Quindi il film nasce, certo ha una storia, ha un plot, però fondamentalmente per tutta la questione e narrativa ma anche estetica del film, che in questo caso è molto forte, mi sono rifatto appunto a molto cinema e italiano e non degli anni 50-60, più appunto rielaborando un certo tipo di immaginario fondamentalmente. E quindi appunto c'è anche la scelta anche di girare in Tirolo, e anche perché c'è anche da qualche parte un'idea di cinema tipo alla Tutti Insieme Appassionatamente, in cui c'è quest'area un po' rarefatta di apparente benessere e che però nasconde poi sotto un malessere che poi si esplicita alla fine. Brutti idioti. Stammi lontano, René. Ma cosa potevo fare io? Difendere tua moglie. Non sarebbe servito a nulla. È lo sponsor che decide tutto ed è chiaro che tu non gli piaci. Stronzate! La mia uscita fa comodo anche a te. Così adesso non avrai più paura. Ma paura di che? Che la mia fama offuschi la tua. Ma che dici? Ma cosa pensi che non me ne sia resa conto, eh? Non fai altro che attirare l'attenzione sempre e solo su di te. Io inizio una frase, tu la finisci. Io sono raffreddata, tu starnutisci. E quando mangio fagioli, tu scorreggi. C'è un altro problema. Non ho voglia di ascoltarti. Ma sei mia moglie, riguarda anche te. Mi hanno cercato quelli della banca. Ah, sai che novità. Questa volta la cosa è seria, Lasciami Bella. In pace. Apri tu. Bella. Bella, apri. Io penso che tra questi metto anch'io, c'è un po' un affanno, c'è una continua sempre preoccupazione verso le diete, le purghe, le plastiche e tutto quant'altro, il vestito, mi può dire, c'è un po' quella cosa là, però io spero che sempre in modo ironico ho raccontato questo tipo di ossessione. È una critica, diciamo, come dire, compiacente, nel senso che da un lato, come dire, pure perché sennò, altrimenti, se non c'è un atteggiamento, tra virgolette, critico, su che lavori? Cioè, nel senso che se compiaci soltanto, no, se c'è nella critica anche un compiacimento, nel senso dico, ok, io non prendo le distanze, faccio parte, però è anche un modo per trovare un modo per raccontare queste cose, altrimenti non saprei come farlo. Quindi c'è quello, cioè, però ripeto, io mi auguro che il film sia talmente ironico e umoristico che arriva la critica, ma arriva in maniera lieve e leggera. Ciao Max. Eccolo. Buongiorno belle signore. Da faccia stancato. Come? Mi trovo in splendida forma. È tutto merito suo. Che simpatico. Il film è intrinseco di vari temi che però alla fine, come dire, sono più o meno legati l'uno all'altro, perché appunto sull'apparire e sul successo, sul non guardare dentro di sé ma fuori di sé, quindi appunto sempre fate film anche molto estetico, perché è molto su quello che appare. Nel film nessuno si rende conto che sta arrivando un asteroide che potrebbe ammazzarli da un momento all'altro, pur di intanto pensare, che ne so, al vestito piuttosto che la dieta, piuttosto che la purga o l'operazione di lei. Quindi c'è quella disattenzione verso qualcosa di più alto, più grande di noi. Ci ritroviamo tra poco con 140 caratteri per parlare ancora del Festival Internazionale del Film di Roma. 140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Ancora voci dal Festival Internazionale del Film di Roma nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Spazio F, Roma. Un film sulla maternità e la difficoltà di accettarla. Alina Marazzi, tra documentario e fiction, in Tutto parla di te, ha diretto Charlotte Rampling. I think Pauline, the character in Alina Marazzi's film, was somebody who I really wanted to meet. Quello che mi è interessato molto nel personaggio di Pauline, personaggio di Alina Marazzi, che probabilmente Pauline era un qualcuno che avrei voluto incontrare e che non mi era stato consentito di incontrare negli altri ruoli che ho interpretato negli altri miei film. E in un certo senso in Alina, in quanto persona, quello che mi attirava, quello che mi interessava era proprio questo suo viaggio, il percorso che lei aveva fatto. E la cosa che mi piaceva anche il fatto che lei appunto utilizzasse tutti questi materiali d'archivio, tutti questi materiali documentaristici e il mix che ne faceva e che ne voleva fare con la fiction, che creava questo caleidoscopio che io ho trovato estremamente interessante. Was fascinating to me, and so here I am, and now the film is made. Il ruolo di Pauline è un ruolo in cui c'è un passato molto presente ma che non viene raccontato. Lei porta con sé tutto il suo passato in ogni momento. Come l'ha costruito dal punto di vista recitativo? I think we carry our pasts with us anyway, inside us, and a lot of the time we put them on hold, a lot of the time they are actually in a compartment. In realtà io credo che tutti quanti noi ci portiamo dietro costantemente il nostro passato, un passato che, come dire, mettiamo in attesa, tra virgolette, un passato che sta lì, che lo mettiamo da parte, che è presente profondamente dietro di noi, che è messo in una specie di compartimento al quale magari non accediamo, dove non andiamo a mettere in mano, dove, col quale non ci confrontiamo magari per anni e anni e anni. E poi arriva un momento, come vediamo nel film di Alina Marazzi, un momento nella vita di questo personaggio, di Pauline, in cui lei sente questo bisogno, questa necessità di fare un po' i conti con questo passato e quindi di tirarlo fuori, ed è lì che quindi lei, attraverso quello che vediamo praticamente nel film, lei che ha questo momento e incontra questa giovane donna, ed è questo passato che la riguarda, è un passato che contiene magari qualcosa di un segreto, quindi lei entra a far parte di questo mondo e viene a fare i conti con un qualcosa che è stato estremamente devastante nella sua vita. Very devastating that happened to her when she was a child. Uno schifo, sono sporchi. Tieni. Grazie. A volte mi guarda dalla culla con quegli occhi fissi. E sembra che mi rimproveri. Perché Matteo è così, così fragile. Poi mi guardo allo specchio e vedo quello che vede lui. Un viso stanco e triste. I use cinema and I use film to explore myself in a sense. Io uso il cinema, io uso i film per esplorare me stessa, per cercare qualcosa dentro di me, e attraverso questa esplorazione vado a cercare vari elementi che mi appartengono. Io interpreto sì vari personaggi, ma quello che interpreto in realtà sono tutte sfaccettature di me, perché a me non piace recitare le cose, a me piace essere le cose, e quindi ho deciso, attraverso l'interpretazione, attraverso l'essere questo personaggio, di affrontare, di guardare queste cose oggi. This is what I want to talk about now in my life. Auditorium Parco della Musica, Roma. Il film più contestato del festival è La chiamano estate di Paolo Franchi. Il regista e la protagonista Isabella Ferrari lo difendono a spada tratta. Io penso che tanto è un film d'autore, forse anche in questi tempi è un po' così difficile poter analizzare e vedere un certo tipo di cinema, però voglio dire, non voglio giudicare chi ha contestato il film, ma questo ci sta nei festival, è frequente, insomma, quindi è molto più importante capire poi come è in sala, come viene accolto. Mi sembra in generale che c'è una tendenza a fischiare, a deridere i film così nei festival, una cosa che va già da Venezia, anche qui adesso al Festival di Roma. Così che non so, è una cosa che non mi piace più, non mi è mai piaciuta, non mi sembra giusto, mi sembra così di poco rispetto per gli artisti. Forse qui anche, tra l'altro, c'entra molto anche un fatto politico in questo Festival di Roma, lo sento un po' trattato male, questo povero festival. In realtà abbiamo bisogno di festival, abbiamo bisogno di parlare di cinema, abbiamo bisogno di produrlo, siamo alla frutta, siamo arrivati talmente al capolinea con tutto che così, insomma. Non so veramente cosa dire di più rispetto a questo. No, non sono amareggiato non per me stesso, sono amareggiato per l'Italia, ma non per me, perché il mio film può piacere o meno, ma lo trovo una forma proprio, come dire, di inciviltà, fine, però che dire, è stata una bellissima esperienza e sinceramente continuo ad esserlo, non è che mi aspettassi, cioè io oramai so com'è questo paese, quindi non... ne provo disgusto, per cui non ho una, cioè sono contento anche queste reazioni, cioè se fosse stata un'indifferenza, un'apatia, una, come dire, una sorta di anestesia, no, nella, allora forse sarebbe stato più interessante. Questa aggressività scolaresca mi è sembrata comunque una reattività interessante, a me ha interessato questa cosa, mi fa riflettere. E l'accoglienza del pubblico invece come te la puoi immaginare a questo punto? Per me il pubblico non è un'entità astratta, per me il pubblico non esiste. Esistono le persone in quanto tali, con la loro soggettività, la loro emotività, il loro carattere, quindi c'è chi li rifiuterà, c'è chi lo amerà molto, c'è chi lo odierà, c'è chi... non lo so, io non mi rivolgo a tutti, l'arte egoista, uno si rivolge non a se stesso, ma dice qualcosa di sé o che sente profondamente, che qualcuno può cogliere e qualcun altro può rimanerne totalmente indifferente. D'altronde Duchamp, di fronte al suo urinatoio, provava delle emozioni incredibili, no? Nel ricordare alcune. Io di fronte a un urinatoio rimango indifferente. Certamente credo che la cosa interessante sia lasciare liberi ognuno di vederci veramente quello che vuole. Il rapporto sessualmente consumato è una metafora, nel senso la metafora di un'assenza, di un vuoto che non si riesce a colmare, quindi è metaforica l'assenza del rapporto. L'assenza del rapporto vuole dire anche tante altre cose, significa non uscire da se stessi, non affrontare la realtà, non riuscire ad abbracciarla e non riuscire a colmare questo vuoto interiore. Per il 140 caratteri di questa settimana, continuate a seguirci ogni giorno attraverso il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.